La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Continua il nostro viaggio nel mondo della scuola, la scuola che si racconta ai nostri microfoni, un viaggio quindicinale sulle frequenze di Blu Radio Veneto che oggi intercetta le parole e l'esperienza di un preside, come si diceva una volta, il dirigente del liceo Galileo Galilei di Selvazzano, Luca Piccolo. Partiamo dal POF, un documento che esiste da una quindicina d'anni come documento obbligatorio. Intanto ricordiamo che cos'è a coloro che magari di scuola sono meno esperti. Allora, il POF è il documento che presenta ufficialmente la scuola in tutte le sue parti curricolari ed extracurricolari. Propone la fotografia della scuola e individua quali sono gli obiettivi che ciascuna scuola, in base al proprio indirizzo, che può essere un istituto del primo ciclo o del secondo ciclo, oppure un liceo piuttosto che un istituto tecnico, individua gli obiettivi che questa scuola propone alle famiglie perché lo studente, al termine del suo percorso scolastico, acquisisca delle competenze, delle abilità tali per cui poi possa essere inserito, per esempio per quanto riguarda le scuole superiori, nel mondo del lavoro, nel mondo universitario. Quindi il POF è questa grande vetrina delle scuole dove tutti possono individuare informazioni che sono necessarie. Ecco, chi è all'ultimo anno di un ciclo di scuola e deve scegliere appunto per l'anno prossimo, per il secondo ciclo della scuola media, come si chiamava una volta, già comincerà adesso i movimenti. E quindi le chiedo, in questi anni, anche per la sua esperienza, quanto il POF è tenuto in considerazione dalle famiglie e dagli studenti nella scelta definitiva che poi viene fatta tra gennaio e febbraio? Il POF è sempre più letto, soprattutto da quelle famiglie che nel momento in cui hanno scelto che tipo di indirizzo far frequentare a proprio figlio, facciamo l'esempio, scelgono di frequentare il liceo scientifico, le famiglie cominciano a visitare le scuole della propria zona, della propria provincia, e poi attraverso il POF possono individuare quali caratteristiche, oltre il percorso curricolare, quali caratteristiche queste scuole hanno e che in qualche modo si adattano o incontrano le passioni, le attenzioni, le predisposizioni del proprio figlio. L'esempio è: trovo una scuola che ha anche un percorso extracurricolare teatrale rispetto a un'altra che non ce l'ha, mio figlio è bravo a fare teatro, sceglierò anche quella scuola lì. Le famiglie lo usano parecchio. Passiamo ad un altro argomento, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, prevista, come sappiamo, dalla legge 107 sulla buona scuola, ma in realtà, almeno in Veneto e in altre parti d'Italia, già attiva da diversi anni. Qual è la vostra esperienza? Dobbiamo fare una premessa: l'alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria con la legge 107, che ha anche imposto alcuni numeri che forse preoccupano tanto le famiglie, cioè le 400 ore per i tecnici professionali e 200 ore per i licei. In realtà, almeno come esperienza qui al Galilei, il grande obiettivo, la grande nostra preoccupazione è quella di fornire un percorso per i ragazzi che possono in qualche modo scegliere, un percorso che non li formi al mondo del lavoro direttamente. Un liceo in realtà non ha questo obiettivo, ma crei delle competenze per poter formare poi, per poter agire, delle altre competenze più specializzate nell'ambito universitario. Cioè, per i licei fondamentalmente l'alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo l'orientamento, ecco, quindi con percorsi di formazione, con percorsi di esperienze di stage, con percorsi di visite ad aziende, ma tutto in funzione di un orientamento universitario. Nella vostra esperienza, il vostro liceo scientifico, quali risultati ha avuto in questi anni, appunto quando non era obbligatorio, ma comunque qui si è fatto? Allora, l'esperienza più bella è stata quella dell'anno scolastico appena passato, dove abbiamo sviluppato un doppio binario di stage, non solo in aziende. Noi abbiamo indirizzato i ragazzi che frequentavano la terza superiore a stage in enti, in associazioni del terzo settore, attraverso il centro servizi volontariato di Padova, ed è stata un'esperienza molto molto bella. Mentre i ragazzi di quarta invece sono stati più orientati verso aziende, ma soprattutto soprattutto verso i dipartimenti universitari. Ecco, questa tendenza a far conoscere agli studenti di 16, 17, 18 anni questi due aspetti, l'aspetto universitario ma anche l'aspetto del terzo settore, ha fatto crescere proprio nei ragazzi la consapevolezza di essere cittadini e non solo studenti e non solo figli e non solo oggetto di attenzione di coccole, ma veramente delle persone responsabili, ecco. Chiudo con un suo parere su queste prime settimane di scuola, immagino con tante cose belle ma anche difficoltà organizzative, me lo conferma? Allora, confermo la fatica immane, confermo che stiamo ancora aspettando i docenti supplenti definitivi fino al 30 settembre. Forse non lo so se sono una voce fuori dal coro, io ritengo che questa legge 107 sia una legge buona, solo che tutte le bellissime idee che ci sono dentro, che sono contenute, sono state imposte, proposte e imposte nello stesso momento. E quindi c'è stato, come si dice, un conflitto di interessi, un conflitto di lavori contemporanei che ha portato a delle fatiche, grosse fatiche. Però è secondo me è lo scotto del primo anno. Allora, grazie per il suo intervento e buon lavoro, perché ce n'è tanto. Grazie, grazie a voi. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.